A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua. Ben arrivati e ben risintonizzati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Io vedo che dal mio orologio fanno le 14.02, quindi è un po' sballato, qui. C'è l'ora legale, Paoletti, sì, da sì, oggi. Sì, sì, sì, da sono oggi. Sono le 15 e 15 in punto. 15 in punto, quindi qui bisogna rivalutare gli orologi, assolutamente. E comunque oggi, sappiate, siamo nella domenica del 26 marzo 2023, puntata numero 12 del nostro settimanale salotto musicale, dove diamo uno sguardo, una sbirciata sempre alle uscite discografiche indie, indipendenti, e così diamo uno oggi sguardo. Oggi sbirciatona, direi. Sì, stiamo guardando infatti che cosa succede così nel mondo musicale scoppiettante degli indipendenti, ma non solo, diamo anche uno sguardo ovviamente un po' in generale a tutto il sound del post Sanremo, perché possiamo dire ancora sì, ancora con sto Sanremo stanno ancora dominando ovviamente le canzoni sanremesi, ma insomma stanno anche scendendo e quindi dominando. Stanno dando il ricambio giustamente a nuova forza, nuova linfa, e poi ci avviamo verso l'estate, quindi tante sono le uscite discografiche. Iniziamo immediatamente, quindi, giusto, non prima di aver annunciato che il 333-180-94-94 è il nostro numero di SMS, WhatsApp, Telegram, quindi potete comporlo e così inviarci i vostri messaggi, li leggiamo tutti e ovviamente tutti coloro che scrivono verranno poi salutati. Che dire, che siamo in diretta e direi di direttamente passare alla musica. Quella del primo giovane che abbiamo proposto per voi si chiama Giovanni Santese e ci presenta Algoritmo. Un uomo è entrato nella scuola e sembra avere in mano una pistola, e dentro incontrerà perfino i figli e forse proveranno pure a dirgli: dai, posa l'arma, andiamo via. Non senti, arriva già la polizia, ma lui che non li ascolta così spesso non comincerà da adesso. Sguardo verso il nulla fisso, spara a vuoto e c'entra un crocefisso. Scatta il panico, le grandi grida le si sente dalla strada. Già si sa come finisce, il cielo infatti è tutto stelle e strisce. Ma la colpa non è sua, non è mica colpa sua. È l'algoritmo, è l'algoritmo che tiene il ritmo dei matti, il ritmo. È l'algoritmo che tiene il ritmo dei matti, il ritmo. L'acido ci dà una linfa, nuova la mia donna, la mia bella ninfa. Disse l'uomo: adesso che non sei più mia, ti lascio una carezza che non andrà via. Su via del corso, fagio nome neanche presterà soccorso. Domatore esperto un giorno muore, giallo nella gabbia del leone. Oh madonna della strada, fa che mai nessuno cada. Prega il runner di Foodora, mentre sfreccia mille all'ora. È l'algoritmo, è l'algoritmo che tiene il ritmo dei morti. Signora che impugna la faccia dei secoli bui. Giovanni Santese, algoritmo. Ebbene sì, dopo la data del 18 marzo a Pesaro, dove ha presentato questo pezzo, il 1 aprile sarà a Taranto con Forever Vecchio Tour, lo spettacolo di canzoni e parole che porterà in giro appunto in tutta Italia. Stiamo parlando di questo giovinotto che praticamente si chiama Giovanni Santese, non nuovo insomma a delle uscite discografiche, anzi è un personaggio da seguire molto da vicino. Algoritmo insomma racconta di un futuro distopico in cui l'umanità è in preda agli istinti della follia, appunto dell'algoritmo. Infatti questo futuro distopico dell'umanità che obbedisce ciecamente ai comandi degli algoritmi ci porterebbe insomma a essere, diciamo, a comportarci in maniera crudele e disumana. Questo è praticamente diciamo il senso di questa canzone molto inquietante di Giovanni Santese a proposito di algoritmo. Io ricordo un album di Tavernelli, no, che si intitolava, sì, Algoritmi. È vero. E devo dire che Tavernelli, esatto, è stato forse il più che visionario. Questo futuro distopico che secondo me è già un presente. In tempi non sospetti, già, sì, sarebbe da fare proprio una riflessione su tutta la società. Questo non è il canale, noi quindi salutiamo. Esatto, salutiamo Giovanni Santese e noi parliamo invece della prossima proposta musicale, Madhouse con Without You. Without You a Easy Pop sulle frequenze dei 103.10 di Radio Città Fujiko. No, Bolognese Volante. Franco Paoletti che buon voleva pomeriggio. Dire buon pomeriggio a lei. Molto interessanti questi Madhouse, sono una band di hard rock della provincia di Modena, non nuovi insomma alla musica, già conosciute più che nell'Italia, insomma nella nostra penisola. E il risultato loro è praticamente questa strizzatina d'occhio all'hard rock degli anni 80, infatti si ricorda insomma questo pezzo un po' alla Europe, insomma alla musica, quel genere musicale lì che insomma ci piace molto e che è quel rock gradevole da FM, da molto americano, no? Che si va in macchina, si ascolta un po' di rock sano, e devo dire ci hanno colpito proprio per questo nuovo singolo, quindi Madhouse Without You, il pezzo che abbiamo ancora in sottofondo. Complimenti ragazzi, è curioso perché per essere poi una band insomma italiana e poi di Modena abbiamo trovato anche lo spazio per loro, e io qui approfitto e saluto GP perché so essere all'ascolto e poi essere un fan appunto del gruppo. Sì, un messaggio in codice, quindi un GP. Saluto che avevo promesso, quindi GP. Ciao GP. Ciao GP. Passiamo invece alla prossima, dopo questo hard rock, insomma, molto gradevole. Americano. Passiamo no, mi aiuti qui perché... Senza cuore, 48 ore, parte subito. Senza cuore, senza cuore. Ancora la collana nostra, perché alla fine non mi passa. Ed ora quest'estate basta per dimenticare che sono notti che mi perdo in quei ricordi di quel tempo e le parole sopra un verso che se mi volto io mi pento. Ma te chi te l'ha mai detto che io mi sento perfetto? Se poi mi guarda allo specchio e mi vede imperfetto, ma io mica lo faccio apposta a innamorarmi di una stronza. E dimmi come fai a dimenticare tutto in 48 ore, ora che non sai che sei in testa come un tormentone. E dimmi che hai smesso di parlare con quel coglione che ti faceva solo del male, non solo con le parole. Come siamo arrivati qui? Noi che ci siamo lasciati a metà di un film. E dimmi come hai fatto a dimenticare il nostro patto, beh. Senti il freddo di un disordine, ora che hai perso le cartine. Scavi in fondo al cuore, non trovi le parole per potermi dire che ti sei persa in quelle chat dove ci prendevamo in giro. E poi le storie in Instagram, giuro sembrava un bel casino. Ma io mica lo faccio apposta a innamorarmi di una stronza. E dimmi come fai a dimenticare tutto in 48 ore, ora che non sai che sei in testa come un tormentone. E dimmi che hai smesso di parlare con quel coglione che ti faceva solo del male, non solo con le parole. Che hai detto sempre di no ad andare da soli al mare, che le ferite bruciavano se erano ricoperte di sale. E dimmi come fai a dimenticare tutto in 48 ore, ora che non sai che sei in testa come un tormentone. E oggi il prato non è più verde. 48 ore, proposto dai Senza Cuore, fa rima involontaria, penso. Sì. Allora, in realtà lui è un'unica persona, cantautore Christian Conforti all'anagrafe, in arte appunto Senza Cuore. Sta passando questo suo singolo 48 ore, appunto il brano che lo presenta al grande pubblico, anche se tra il 2021 e il 2022 è stato scoperto dal discografico Antonio Salvati e da lì comincia a lavorare insieme a Sabatino Salvati. Ne nasce appunto questa 48 ore con il brano con cui appunto l'etichetta attuale decide di presentarlo alle selezioni Sanremo Giovani, arrivando tra i 43 artisti selezionati ad ottobre da Amadeus, ma non è riuscito a passare tra i primi 8, però si è già messo in luce, quindi questo è uno dei talenti che sicuramente se tiene duro sicuramente passerà, no? E riuscirà a fare qualcosa d'altro e di più importante, quindi in bocca al lupo a Christian Conforti, ovvero sia appunto Senza Cuore. E che dire? Che dire? Che dire? Che possiamo andare avanti, giusto? Ah, se vuole io vado avanti. Allora, la prossima. Li presenta lei o li presento io? No, non li presenti pure lei. Allora, arriva un gruppo, si fanno chiamare Blu Artico e ci presentano Mostri Sotto il Letto. Sentiamo. Male i miei 20 anni adesso. metri alti, il coltello tra i denti, mi guadagno lo spazio nel mondo dei grandi, senza più scappare per nascondermi. La paura è un'opportunità, un'altra guerra che mi ritroverà. Un po' vivo, un po' morto, un po' vivo, un po' morto, un po' vivo, un po' morto, un po' vivo, un po' morto. Sai, è da più di un anno che sotto il letto non ci sono più mostri. Sai, è da più di un anno che sotto il letto non ci sono. Un pezzaccio questo dei Blu Artico. Sì, sì, sì, sì, sì, molto cattivi e insomma aggressivi. Blu Artico nascono. Scherzano mica tanto. No, no, assolutamente. Nascono da ciò che resta dei Crevis, band attiva nel milanese già dal 2006, che poi tra l'altro aveva già inciso dei brani che appunto loro ripropongono. Ora ci hanno proposto questo nuovo singolo che è praticamente il seguito dell'estratto appunto del primo singolo dell'EP, se non sbaglio, che era uscito nel 2022, a fine 2022, che si intitolava Alberi. Quindi in bocca al lupo con questo sound veramente aggressivo, si distinguono sicuramente. E a questo punto parliamo ancora di band, di animali notturni con anni 80, e ci parlano appunto di che cosa sono stati questi anni 80. Ascoltiamoli. Una cosa che non si sente più. Infatti. È sabato sera. Si scioglie sempre troppo in fretta. Il sesso, la droga, il rock anni 80. In questo locale la musica spacca. E poi ci si dimentica che qui non è l'America. Il sesso, la droga, il rock anni 80. In questo locale la musica spacca. E poi ci si abbiamo fallito la rivoluzione. Troppe storie di Instagram a zero, storie d'amore. Il sesso, la droga, il rock anni 80. In questo locale la musica spacca. E poi ci si dimentica che qui non. Anche questo un pezzaccio, gli animali notturni con gli anni 80. Su questo brano saluto Stefano che ci sta messaggiando Saluti. Mi aggrego anch'io allora, e giocando su questa definizione animali notturni, il quintetto di Brescia o giù di lì ha trovato l'ispirazione per sdrammatizzare in modo così da condividere insieme a noi che cosa succede di notte, perché insomma si sa, gli animali notturni trovano sempre l'ispirazione così più strana, no? Perché tra l'altro vedono con gli occhi diversi dai nostri, e quindi vedono nella notte e vedono cose che noi non vediamo, diciamo così. Ma guardi, io di notte così dormo, quindi non so cosa succede. Benissimo, e allora in bocca al lupo anche a questa band che è insomma attiva, se non sbaglio, già da qualche anno. Sì sicuramente da qualche anno, e non sono nuovi alle incisioni, perché io vedo che qui hanno inciso nel 2018 Vivere Distanti e poi un EP nel 2022, e adesso ci riprovano con questo nuovo album dal titolo Vortici. Detto ciò, velocemente andiamo con un gradito ritorno, un altro personaggio che nella musica indie si è fatto conoscere molto bene, non solo, ma anche un certo tipo di pubblico, un target sicuramente l'ha già sicuramente visto. Sto parlando di Ivan Segreto, che ci presenta il suo nuovo singolo che si intitola Paura e Pace. È il bianco, è il vuoto, è come il sale, è come il fuoco, e grazie al vento che va veloce, che adesso ascolto e sento. Allora, Ivan Segreto, Paura e Pace. Adesso, mentre Paoletti ne cerca il press kit che non lo trova, andiamo avanti col prossimo brano, perché sennò qua rimaniamo indietro. Adesso faccio partire Suki Waterhouse e la sua Nostalgia. Nel frattempo vengo a dare una mano. Do you still have the CDs that I burned you? The t-shirt you pulled off me? The night you said you loved me? I still have the marks that you made on me. It's easy to forget that you are gone. I talk about the past like I talk about you. I leave out every little thing that I don't like remembering.

regia del Bolognese Volante. In onda Paoletti. Ah, siamo nuovamente rientrati in studio insieme a Franco Paoletti che vi parla al di là del vento. È un po' colpito dal vento. Oggi una giornata ventosa qui a Bologna. Dicevo, al di là del vetro c'è il nostro immancabile, indispensabile Bolognese Volante. Tolga tutti gli aggettivi, dica solo che ci sono io. Basta. Ecco, esatto, il nostro Bolognese Volante che spinge cursori, alza cursori, spinge bottoni. Basta. Allora, dicevamo che siamo entrati nella seconda parte di Easy Pop, di questa calderone, di questo bel salotto dove si parla di musica indipendente e non solo, dando uno sguardo, ovviamente ampliando il nostro sguardo a cosa succede nelle hit parade, comunque insomma nel mondo musicale, quello più formale, diciamo così. Puntata numero 12 di domenica 26 marzo 2023. Avete puntato bene i vostri orologi, perché qui sono all'ascolto, si spera di sì. Mi auguro di sì. Tra l'altro qui però ancora in redazione sto attendendo. Adesso cambiamo. Tacabanda, perché abbiamo 8 pezzi. Velocemente oggi 8 pezzi, dobbiamo correre come non mai, quindi partiamo subito da un rapper bolognese. Io giuro non lo sapevo fosse bolognese. Non si può sapere tutto, anche perché trattasi di un secondo EP per questo giovane che si fa chiamare Party, spero di aver pronunciato degnamente, come il Party, nuovo EP per lui, e il singolo che andiamo ad ascoltare si intitola Per Te. Al mio interesse fuori gira la BS, canzoni d'amore suonavano le stesse, ti porterò a bere in giro tutte le sere, vero bebè stai attenta, confondo male bene. Lavoro, penso a te, non si tratta di rap, lo giuro stavolta, nemmeno di cash, non essere gelosa dell'amica nel club, per te faccio il bravo, non esco più il weekend. Non è bene il letto in una prigione di cose non dette, sentivo freddo, sciogli l'inferno con gli occhi, il ghiaccio dal petto, prima scappi, poi ritorni, scandiamo noi rintocchi, siamo fermi nel tempo, metti i tacchi, dopo mi tocchi, io l'accendo, a volte sembra che mi assento, non ci fossi, sai ti invento, lo facciamo, c'è il tramonto che ti voglio e non mi pento. Lavoro, penso a te, non si tratta di rap, lo giuro stavolta, nemmeno di cash, non essere gelosa dell'amica nel club, per te faccio il bravo, non esco più il weekend. Mi ha tradito, me la leggo al dito, per certi sono un mito e poco dopo un fallito. Per te faccio l'amante, anche il marito, rapino banche, morirò bandito, resto con la scimmia per il tuo battito, e chissà il tuo ex com'è sparito. Sono già le 4 e tu mi scrivi, yeah. Ho più gin e panta che le fibie, yeah. Brilli più dei sogni e dei miei vivi, yes. Mi hai rubato il cuore a sguardo vigile. Lavoro, penso a te, non si tratta. Eccoci qua, questo rapper bolognese che racconta la propria città, le proprie delusioni, le sue relazioni e così via. C'è da dire che per questo nuovo EP si è un po' così avvicinato un po' di più alla musica pop rispetto al rap che faceva prima. Voltiamo pagina e a questo punto parliamo anche di lei, Susanna Ferrara, che ci presenta Anni Luce da qui e poi approfondiamo. Tu hai perso la voce nel buio. No, sai, se questo si chiama futuro. Io ho occhi ciechi per la pioggia. Non so come si ritrova la strada. Ci sono troppe mura che non riesco a scavalcare. Tu ci vivi dentro perso, forse non ti importa di scappare. Non senti le grida. A scavalcare tu ci vivi dentro perso, forse non ti importa di scappare. Non senti le grida nel vento come mi ritornano indietro. Io corro ma tu resti fermo come se ti fossi arreso senza provarci. Se cerco non trovo il senso, brucia forte quello che ho dentro. Ti dico che ok, sai che mento e tu che ormai sei distante ogni luce da qui. Mi piace questo brano di Susanna Ferrara, Ne luce da qui. Ricordo per tutti coloro che si fossero messi all'ascolto in questo istante che state appunto ascoltando la trasmissione di musica indie 100% Easy Pop dalle frequenze dei 103.10 in FM di Radio Città Fujiko. Chi vi parla è il bolognese volante, dall'altra parte nello studio c'è Franco Paoletti, che vi racconta un po' di Susanna Ferrara, questa ragazza che è praticamente partita da Pozzo di Gotto, da Barcellona a Pozzo di Gotto, un posto famosissimo, famosissimo sicuramente, e da lì è partita la sua anche carriera. Dopo aver studiato, lei appunto si è trasferita a Roma, ha partecipato a seminari e quant'altro, ha studiato musica e si è a Beppe Vessicchio, Grazia Di Michele e poi quello, tanti altri. Beppe Vessicchio è ovunque, è come ovunque, però è vero, ma perché è una scuola e ma quindi insegna, carità, e poi in dubbio. Prendo, quindi, atto, prendo atto. È come la scuola di Mogol, poi tutti uguale, ci passano, quella, ci sì, transitano, sì. E quindi praticamente è approdata a un interessante contratto, diciamo, con la Cantieri Sonori, che è la sua attuale casa discografica, e questo è il suo singolo che insomma la propone a un po' a tutti. E devo dire che la voce c'è, brava, brava, perché poi tra l'altro qualche anno fa ha partecipato anche a X Factor, chi l'avrebbe detto. A questo punto partiamo con ancora la musica straniera, ci viene a trovare Matthew Lee con una cover famosissima. Io dico solo il titolo, Suspicion Mind, questo è il titolo di questa cover riattualizzata e letta così. We're caught in a trap, I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious minds. Dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I really crying. from your eyes. Let's don't let the good thing die. You know, baby, oh, I never lied to you. Yeah. We're caught in a trap. I can't fall. Comincia da giovanissimo ad esibirsi dal vivo e la sua carriera live cresce rapidamente. Suona prima in Italia ma poi anche in tutta Europa e dopo un successo interessante in Inghilterra partecipa a numerosi festival suonando prima gli artisti del calibro di Van Morris, a Tom Jones, e la stampa inglese lo definisce The Genius of Rock and Roll. Nel 2010, dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l'Università di Urbino, debutta negli Stati Uniti al Cincinnati Blues Festival al fianco di grandi nomi del blues americano, e stiamo parlando semplicemente di lui, Matthew Lee, che praticamente si sta dando anima e cuore, come si suol dire, alla musica. Attualmente Matthew ha 7 album all'attivo con la sua band e in tour in tutto il mondo con date e calendario da sold out, forse meglio, tutto pieno praticamente, dove non si può più entrare, e si esibisce in Francia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Dubai e anche ovviamente in Italia, perché lui è proprio di origine italiana e quindi ha scelto un nome, diciamo così, un po' come succedeva negli anni 80, no? Un nome d'arte e così, insomma, in realtà anche lei è un nome d'arte, no? No. Perché? No. Matthew Lee, diciamo che praticamente è metà e metà, e quindi giustamente ha giocato molto sulle sue origini, quindi sappiate però che è di Pesaro. Ecco, detto ciò, andiamo avanti con ancora dell'ottima musica. A questo punto io sono sempre incerto, no, nel pronunciare i nomi. Lo pronuncio io. Ecco, lo pronunci lei, mi aiuti. Bunny con The Kiss. Ecco, fino a qua ci arrivo. Yes, I swore that I'd be gone in the day. Stroke of midnight, I had my hands on my key. Honey, sweet as apple pie. Something happened, can't believe I didn't fight. Can you tell me what you did? É um È un peccato interrompere questo brano molto bello, molto dolce, elegante di Benny con The Kiss, vero Paoletti? Noi però abbiamo come sempre il tempo che corre, che fugge, quindi il tempo tiranno, e noi da The Kiss di Benny, cantautrice pianista di origine vicentina, a cui piace l'indie folk, il blues, firma il suo primo contratto con Time Bomb Music dopo il successo del 2021, il suo primo singolo Missing With My Heard, ritorna con questo singolo molto, davvero molto interessante. E che dire, che a questo punto noi proseguiamo con la prossima, che è appunto qual è, regia? Siamo, mi aiuti, perso. Lei? Mi sono perso. Griner con Jack. Ancora musica anglosassone. Sophisticated. Could have saved a lot of heartache from iffy lies. Eagles fly when you're feeling under par, and now fatal draw. We call all the shots, our men. Terzo singolo per M. Griner, di cui abbiamo già parlato, di questa cantautrice canadese che ha lavorato con veramente i mostri sacri della musica internazionale. Quindi abbiamo ascoltato quello che è il suo nuovo singolo e che appunto impariamo a conoscere. Lei fa del funk, jazz, insomma soul, molto molto bene. Poi tra l'altro, insomma, avendo lavorato veramente con David Bowie, anche con insomma tantissimi grandi della musica internazionale, è approdata anche in Italia con questo nuovo singolo e a presentare il suo album. Pensate un po', è stata l'ex tastierista anche di David Bowie, se non sbaglio. Quindi insomma complimenti veramente a lei, cantante di tutto rispetto. Sì certo, ha lavorato con grandi nomi, quindi insomma si approccia anche al mercato europeo e più italiano, quindi in bocca al lupo per lei. A questo punto cosa abbiamo, regia? Abbiamo un granditissimo ritorno, come Rudy Marra. Sì, ecco, ritorna un cantautore che praticamente scrive più per gli altri che per se stesso, e per questo si vede poco, diciamo, così si ascolta poco, ed è un vero peccato perché diciamo che è un geniaccio della musica italiana, però insomma il consenso si fa sempre fatica, no, a tenerlo. Però quando i grandi della musica italiana cantano le sue canzoni, il successo arriva. E quindi un graditissimo ritorno per lui, che vinse, se non sbaglio, addirittura la targa, quindi il premio Mia Martini all'epoca, qualche Sanremo fa. Ci ascoltiamo di Rudy Marra il suo nuovo singolo. Qual è, regia? Allora, tratto dal suo nuovo lavoro, sì. Nuovo LP che si chiama Morfina. No, ecco Morfina, se non sbaglio. Sentitela proprio così? L'album si chiama Morfina, okay. Noi ascoltiamo il singolo, che è la traccia numero 3, che si intitola Oggi sto guasto, Rudy Marra. Testa fino in fondo, veleno dentro, veleno dentro, mi brucia tutto come fuoco nel cervello. Sto così e non rispondo. Oggi sto guasto. Quanto mi piaceva questo sax di Dana Cooley, ovvero sia dei Morfina. Ecco perché mi sono un attimo confuso, perché mi sono perso che l'album che è appena uscito, che è licenziato Rudy Marra per la Viceversa, appunto si intitola Morfina, come il gruppo che, con cui ha lavorato in passato, i Morfina. Allora, Rudy Marra e The Mob featuring Dana Cooley, che è presente in questo album, presente anche come guest star. C'è anche, se non sbaglio, Eugenio Finardi, quindi insomma, il che non è assolutamente male. Un album meditato, molto interessante, con grandi nomi che hanno insomma fatto bello questo album, che contiene tra l'altro tanti quanti brani, regia, tantissimi. Mi 15 sembra, brani. Esatto, 15 brani. Un LP vecchia maniera. Intanto in sottofondo aveva messo l'inizio dei Young Fan Cannibals, Johnny Come Home, per l'attacco di sax che le piaceva tanto. Sì, mi piaceva tanto. Richiestomi. Esatto, quando poi si trovano, no, queste chicche, queste perle, mi ha fatto subito ricordare anche l'attacco di appunto Johnny Head Jazz. Io penso che questo Johnny pezzo Johnny Come Home, Sun Devil and Cannibals, sì, esatto, Johnny Head Jazz era un altro gruppo, è vero. E appunto dicevo che queste cose qua poi mi fanno un po' impazzire, no? C'è il collegamento da una cosa all'altra, e quindi abbiamo 5 minuti per gli ultimi due brani. Così. Allora, di questo Rudy Marra speriamo di averlo. Lo avremo, in intervista. Conti su di me. Un album, sì, la regia deve lavorare anche. Se andiamo questo. Avanti, non facciamo. E a questo battute. Punto saluto Rudy Marra, complimenti per il suo ritorno alla Bravo, musica. Abbiamo chi abbiamo? Ecco, adesso chiudiamo con l'ultimo brano per oggi di questa, sì, scaletta di domenica. Di domenica abbiamo domenica 26 marzo 2023. Bravo. Chi abbiamo? Sarah Jones con Riopan. bustina di Rio Pan. Per smetterla di pensare ai ricordi che tornano su. Che acidità di stomaco che sento. Io proprio non digerisco il Natale di un anno fa. Ma non è colpa mia se sono nata così. Con un cuore che ha il reflusso e che faccio? Lo butto. Tornare in me. Ci vorrebbe una bustina di Rio Pan. Per smetterla di pensare a stomaco pieno. E di sbagliare strada. Sbaglio sempre strada. E non è colpa mia se sono nata così. Eccoci qua, Rio Pan. Ma sono curiosi questi giovani che così dal loro cilindro fanno così uscire queste cose strane. Questi Rio titoli Pan. E questi nomi anche, infatti, perché anche i nomi sono tutti abbastanza singolari. Mi sono chiesto cos'è sto Rio Pan. È praticamente una sorta di digestivo, se non sbaglio. Okay, per questo, lo stomaco, per il reflusso. Esatto, questo. Questo non facciamo pubblicità, Paolo. No, diciamo che questo è un pop un po' sincopato, un po' come anche Angelina Mango, no? Adesso hanno questo modo di fare il pop molto così, molto tagliato, queste parole molto schematizzate, un po' rap, ma poi non è rap, molto melodico, ma poi non è proprio il melodico all'italiana a cui siamo abituati. Vabbè, comunque sappiate che è uscita questa signorina, si chiama Sarah Jones, molto giovane, e ci ha presentato appunto questo pezzo. Regia, io sono nelle sue mani. Cosa abbiamo? Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole. Cosa dobbiamo fare se c'è la minaccia? Non possiamo controllare. I progetti che facciamo vengono spazzati. E quando ci sei tu scatto le parole, gira la testa. Vado in confusione, spacchi la faccia. Viaggio intorno al sole. Viaggio intorno al sole. Scrivo una canzone, mi scoppia la festa. Ballo sulle scale, piango sotto la doccia. Fuori la rivoluzione. La rivoluzione. Cosa dobbiamo fare se pensieri della sera non ci fanno addormentare. Non possiamo controllare le correnti e le tempeste che ci fanno affogare. E quando ci sei tu scaldo le parole, mi gira la testa. Vado in confusione, mi spacchi la faccia. Viaggio intorno al sole. Viaggio intorno al sole. Scrivo una canzone, mi scappia la festa. Ballo sulle scale, piango sotto la doccia. Fuori la rivoluzione. La rivoluzione. Con i gomiti che si toccano, con gli spiriti che si uniscono. Muoviti, muoviti. Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole, bella conclusione di questa puntata, secondo me abbastanza scoppiettante, abbastanza easy pop. Esattamente così, questo pezzo rompe un lungo silenzio per il cantautore romano che ritorna un po' così in vigore con questo nuovo sound, anche nuovo sound, perché insomma mi sembra un po' più così gli abbia giovato questo silenzio. Bene. Non complimenti a lui. Non facciamo in tempo. Va bene, allora ci salutiamo qui, ci congediamo, regia. Sotto il singolo di Tommaso Paradiso, ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, speriamo di aver fatto passare loro un'oretta. Come no? Allora, qui è Giovanni di Torino, vado a salutarlo, Stefano, perché mi hanno Vicenza, chiesto Stefano poi di Vicenza. Via a tutti quelli che ci hanno ascoltato. GP, lo saluto. Abbiamo veramente tantissimi, vi ringraziamo per la pazienza. Grazie, vi auguriamo una buona domenica. Vi lasciamo alla programmazione di Radio Città Fujiko, vi diamo appuntamento domenica prossima. Bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Poletti. Buona domenica. Ciao ciao. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da-da-da.